ho l'impressione di stare come foglie sparse sopra un fiume. Sole, i miei risvegli con il dolore e nauseato dal presente assente. Vivere perché si ha dell'aria nei polmoni da comprimere e da respingere. Vomito ogni battito, il mio sangue anestetico, la mente lucida. Non vivo qui dentro di me, un corpo che è sempre immobile. Non piango ma non riderò, cadere a testa in giù. Mi chiedo di scegliere la scelta che non. Senza me è meglio morire. Non vivo qui dentro di me, un corpo che è sempre immobile. Non piango ma non riderò, cadere a testa in giù. Mi chiedo di scegliere la scelta che non. Guardano in su, io non ho.